Dio quanto è buio dentro e fuori me, cerco una luce che più non c'è, non so quanto è distante il mattino, non voglio restare solo, stammi vicino, nell'universo immenso o in un metro quadro, ci si perde allo stesso modo. Se non c'è nessuno a darti una mano, qualcuno a cui dire stammi vicino, restami accanto anche senza parlare, averti vicino è già come volare, come fa un'aquila oppure un gabbiano, solo ti prego stammi vicino. Stammi vicino, non chiedermi per quanto ancora, un giorno, una vita, o forse solo un'ora. Aiutami a trovare quello che ho perso, o forse quello che non ho mai avuto. Restami accanto ancora un momento, voglio parlarti e dirti quello che sento. Adesso dici, è buia la vita senza gli amici, sono lo specchio in cui ci guardiamo, ma non andare, stammi vicino. La pioggia è cessata, è finito l'inverno, vorrei che quel che provo durasse in eterno, non ho paura se mi tieni la mano. Questo ti chiedo, stammi vicino, stammi vicino, non chiedermi per quanto ancora, un giorno, una vita, o forse solo un'ora. Aiutami a trovare quello che ho perso, o forse quello che non ho mai avuto. Restami accanto ancora un momento, voglio parlarti e dirti quello che sento. La notte è vinta, nasce l'aurora, stammi vicino e parlami ancora. Ma una cosa sapere vorrei, stammi vicino e dimmi chi sei, chi sei, chi sei.